sarebbe educato. Ragazzi, vuoi vento vecchio e poi so, non funzionava più l'antenna. La mia è già antica. Io lo sai. Non mi la faccio male, però mi dà questa specie di cosa di... manca l'indicatore di colpo, hai capito, la trasmissione va bene, c'è uno e due sempre. E quindi c'è qualcosa, non lo so, evidentemente è PL. Deve essere risaldato, e quindi tocca o non tocca il polo caldo. Ecco, sicuramente sì, lo fa massa bene. Vabbè. Che ci vuoi fare? E nulla, bisogna che sacco sopra e stacco il PL. Poi faccio il PL e poi si vedrà. Adesso mi ho tirato la mia 27L, è già pronta. Non devo fare altro che toglierla, cioè toglierla, prenderla dal negozio, da Torino, piazzarla e poi la mando, la sistemo, la faccio nuova, nuova, come avevo fatto l'altra volta con l'altra, che è durata altri 6 anni. Allora mi è stata ripristinata, proprio tutta. Ho fatto Fabrizio, ma tutta però un po' oxidata. Penso che altre, non so, 10 anni farà. Penso di sì. Anche io devo fare la stessa identica cosa, la devo ripristinare, cambiare il cavetto che c'è all'interno, dal PL fino alla bobina, e poi una volta che ho fatto quello, sono a posto. Compro 2 radiali di alluminio da coso, gli faccio il foro e io lo sistemo, e poi al limite a posto di fargli l'attacco in ferro come sotto, la mato a tubo, la faccio l'attacco di acciaio direttamente, a me non ho più quei problemi a girarmi le palle, capito? Beh certo, sotto 2 secondi buon po' che come se la lavate ce la pare, ma la stendo, allora vai la fuoco, arrivo su, ti aspetto. Ehi, d'accordo. Sparisce il segnale, riappare, stazionare 1-1, devo smontarla, il PL, non riesco a capire cosa cazzo sia. Cioè giù l'ho fatto nuovo, su è 1-1, non so più cosa cazzo pensare io, a un certo punto. Non lo so, già smonto sopra, che poi mi sembra un pochino strano, stazionare sono 1-1, che schiaccio, non schiaccio, sono 1-1, la ricezione ce l'ho, sale e scendi, e ce l'ho a casa, quindi non lo so, secondo me è... questo cazzo di PL di Fusaro lo sapevo un cazzo. È positivo Antonè, anche io una volta l'ho preso lì un PL a saldare, dopo la fatica a saldare poi non avvitava sulla radio, sono difettosi, conviene ordinarli online e ti arriva roba molto molto molto meglio. meglio, capito? Perfetti, avvizzano e non ti creano problemi di saldatura, perché hanno anche un metallo scadente, capito? Probabilmente c'è il PL che non è, diciamo, performante, capito? Perché comunque qua, vabbè, siamo vicino, mi arrivi molto bene. Se in fondo scala qua il segnale, Antonio, Radio Super 5. Sì, ma è bello che qui non mi segna niente, c'ho uno e uno, hai capito? Qua nel baracchino, c'ho uno svetto agganciato, non mi segna niente, cioè fosse stato qualcosa sopra l'antenna, mi avrebbe segnato da uno e uno, uno e cinque, oppure due, hai capito? Evidentemente sono quei PL che mi sono stati dati lì a GBC che non servono a cazzo, cioè GBC, da Fusano non servono a niente, non conducono. Non saldano, non lo so, quindi adesso mi sono tirato l'antenna nuova, la mia 27 L mi ho tirato in modo da togliere questa e sistemarmela bene, fargli la revisione, hai capito? Fa la nuova, dopodiché me la ripiacerò, però per il momento non posso stare lì. Sta riuscendo in queste condizioni, certo, ma fa il culo a me. Hai capito? Me l'ha fatto solamente qua giù, il discorso è quello, ce l'ho, il problema ce l'ho qua a casa, ce l'ho. Il piede è agganciato, non si muove, né niente. Ho comprato uno spezzone nuovo alla GBC l'altro giorno, ho pro io l'ho pagato. Intanto è sempre la stessa identica cosa. Non lo so, bisogna che mi procuro un piede in macchinette, e forse l'unica cosa, se no mi cambio cavo e se la piglia in culo, mi compro il cavo nuovo e faccio tutto un coso, se la piglia in culo. Quanto cavo hai, quanti metri ne hai di cavo tu per l'impianto tuo? Vabbè, sono intorno ai 15-20 metri, non di più, ma non è quello l'importante, il capo è nuovo, hai capito? Era nuovo, cazzo, il capo. Il discorso è quello lì, e l'ho saldato, eccetera, eccetera. Non penso che c'entri niente, cazzo, quel capo lì. È impossibile, cazzo. Allora sicuramente il PL, che magari cos'è, in plastica e non in bachelite, magari si è sciolta la plastica mentre saldavi e magari ci fa contatto qualcosa, capito? Dopo, se scendo giù in garage, guardo se ne ho qualcuno io di PL, di quelli in bachelite, e poi te lo faccio avere. Sì, vabbè, non è quello il problema, che lo sai. Me lo posso anche prendere i bacchini, è il fatto che io non c'ha niente, cazzo. Sono andato l'altro giorno e gli ho detto, Tony, mi serve lo spettatore di PL, e gli leggi 216, non ne ho, cazzo, però che cosa c'hai, lui dice, lo spettatore alle 18:48, dammi quello, gli ho detto, e te lo pago, gli ho detto, dopo lo mai, mi sembra, se non mi ricordo male, mi ha detto, sei io, adesso non mi ricordo quanto sia la spesa, la verità, certo, ma è eccessivo, cazzo, la cosa del genere. Poi mi ha detto, per la mia 27, ha detto, ascolta, mi serve un'antenna, una mia 27 L, quanto è? 70 euro, ho detto, guarda, mettimela da parte e me la prendo, io ho detto, lo voglio avere una di riserva, non posso fare così, io ho detto, io... Eppure, sto guardando il coso, non si muove di un millimetro, uno rimane, capito? A volte quando c'è vento, cazzo, ma non è questione di... cioè, non è che muovo il barattino dentro a casa, è come se fosse il piede di sopra, capito? Ho capito, ascolta, guarda, ti ho mandato un saluto su WhatsApp per vedere, perché avevo cambiato telefono e voglio capire se hai cambiato numero, sempre quello. Ah, 371? No, aspetta, mi è arrivato all'altro, mi è arrivato, è quello che c'aveva Giampiero. Aspetta un attimo, secondo me mi è stato tolto WhatsApp, cosa del genere. Sì, ho ricevuto un ciao. Ciao. Sì. Questo adesso lo memorizzo. No. Perché anche io molti numeri me li sono persi, capito, e quindi non ce li ho più. Adesso da WhatsApp ho fatto il backup e mi ha scaricato tutti i vecchi, capito, e quindi però non so se corrisponde ancora, se è giusto il numero di telefono, se qualcuno l'ha cambiato, capito. No, c'ho su WhatsApp il tuo. C'è scritto ciao, meno male. Devo solo memorizzare come numero di telefono normale e basta. Siccome l'avevo prestato Gian Piero, no? Quando andava lui al coso, perché era senza telefono e cosa del genere. Poi io già ti faccio vedere ciò che ha scritto, mamma mia. C'era la ragazzi. Ha scritto al sindaco, ha scritto ai pompieri, ha scritto a cosa, per carità, la capelli, ma poi dargli un telefono, cazzo. A un certo punto va in galera qualche giorno. Antone, scusa che c'è una chiamata, che mi chiedono un controllo della radio per vedere se c'è il QRM alto, capito? Ehi, io sono qua d'accordo, dai, non c'è problema. Avanti. QRM ce l'ho anche io alto, Giulio, stavo guardando adesso. Ciao, buonasera, chi sei? Sei dalle 5. Boh, ti hai parlato della mia o sei sceso tu? Due sono le cose. Mi sembra che va bene per l'altro giorno. Ho detto 6-5 di segnale, arrivavi 9. O ci sei sceso tu o ci sono sceso io l'antenna? Ah, ecco. 6-5 comunque di segnale, vabbè, c'è proprio l'antenna l'antenna mio. Non riesco a capire cosa cazzo sia, se sia il cavo, se sia il PL, se sia boh. Eppure i saturati non si muovono, uno e uno. Adesso ho ordinato l'antenna nuova, la B27L, ho ordinato. Nel sacco da manto va se la biglia in culo. Me la sistemo. La porto giù. La in garage, me la sistemo bene, la pulisco, poi li rimetto i nuovi materiali nuovi, li rimetto, eccetera. Come avevo fatto all'ultima che avevo, cioè la prima che ho avuto, che è durata 7 anni, figurati. Ho cambiato il cavetto, e ho messo cavo elettrico da 1,5, figurati tutto per resistere almeno 1,2 kW, perché quella che c'ha, il cavo che c'avevo alla fine. Ho capito. Qualcuno sistema? Senz'altro è l'antenna che non stava uscendo, capito? Se qualcuno è più forte di me è logico che c'è problemi all'antenna, anche se c'è uno e uno, segna uno e uno, perché la sera dell'antenna è cortocircuitata davanti a turbo. A volte sono dei problemi, sembra che non ce ne sia, come ti metti a fare il carico di watt e te la accorgi subito che l'antenna è in corto. E beh, Antonio, ciao, buonasera, Carlo da questa. E beh, Carlo. Santiago Otto, Antonio, ciao Natalino. Ciao Carletto. È bello il fantasmino, eh. È piaciuto molto. Antonio, già mi arrivi bene qua, Santiago 8, Radio 4. Sì signore, qua arrivi benissimo. Fai un passaggio a Natalie che non ho guardato il tuo, ma dalla radio è Super 5 qua. Sì, guarda un po'. Poi vista l'avevi l'antenna com'è messa adesso? Sì che l'ho vista, qualche giorno fa sono passato da Via Sorso in bicicletta e ho buttato l'occhio, adesso è più all'interno, rimane più alta, capito? È diciamo meno coperta rispetto a prima. Sì, adesso è sul petto. L'ho vista, si vede tutta infatti adesso, prima vedevo solo la punta, capito? La parte finale, adesso la vedo tutta. Ci ho messo anche l'antenna della TV nuova, sotto l'antenna di qua. Ho capito, hai fatto bene, dai, almeno te l'hai sistemata come si deve. Infatti finalmente ci sono riuscito. Vediamo un po', dai, cominciamo a fare il prepotente. Mica sono con 2 watt io, mi bella bene. Io poco fa era pochissima potenza questa. Ora poi si è aumentato, Carlo. Sì, adesso mi arrivi, 9 più 20, 9 più 20. Quando mi arrivo ha fatto il segnale. Ma prima eri più forte comunque, Antonio, Mi ha rotto, mi ha buttato, stavo andando a sorpresa, ma non sarò molto. Vabbè, anche tu prima o poi te la sistemi meglio, ho capito, l'antenna. Non ti preoccupare, già si riesce a sentire bene comunque. Antonello, ci sei ancora? Adesso se no vento comunque, ma si è alzato, si è perfetto, quindi figurati. Bisogna pompare, la tavola pompavo io, adesso pompi tu, diceva quello, poi c'è pompi tu, eccetera eccetera, solo che adesso io non mi fido a pompare, non sai che magari mi prende fuoco l'apparecchio, che ho dei falsi contatti, non riesco a capire dove tanto sia, se sia il DAO, se sia l'antenna, se sia le PL, che mi ha dato fusato, ma fanculo a me che ho contratti lì, potevo, con quei 2,50 a casa andavo, come si chiama, e mi facevo un pranzo, cazzo, mi faceva. Addirittura, è che ti stava attento quando sei il polo centrale, stava attento quando il salto, sono più cattivo. Se si scalda troppo non è gran fatto. Ma scusami che lo salto io, non c'è niente. C'entra nulla, no, quello che stai dicendo tu. Sono salvato quello coso, con salvatore, quello per il tassista, ma stai scherzando, 15-20 watt con quello stagno, quello fine, non ho usato lo stagno da base saldata, hai capito? Il discorso è quello, il PL è giusto, cazzo, il discorso è quello, forse magari il tipo di materiale, se è poco caldo, che ha dei problemi, se no la massa, non lo so. A un certo punto quel PL, cazzo, che la faccia, stanno andando adesso da fusato, fanno schifo, non fanno contatto, è come se fanno contatto solamente se tu schiacci il portante, immediatamente che conduce l'apparecchio, va bene, hai capito? C'ha uno e uno, non si muove per niente da una parte né dall'altra, in ricezione dopo un po', una volta che tu mulli, sparisce il segnale, se ne scende a uno, allora devo schiacciare e portate di nuovo e sale il segnale, il discorso è normale, hai capito? Sei sicuro che è PL? Sono sicuro sì che è PL, non è possibile che sia tal cosa. Il baracchino non è, scusa, lo fa il Kenwood, lo fa il 3000, il Connex 4000, lo fa il 3009, allora lo so, Marco, tutto costo, e la questione è due sono le cose, o il cavo, o sono il PL, o l'antenna, due sono i problemi, anzi due, non sono più di due, sono 4 o 5 sono i problemi, adesso mi ha girato l'antenna nuova, appena c'è l'antenna nuova tu vedrai che la questione è cambia, te lo dico io. È normale che cambia. Esatto, devo lasciare io. Andiamo. Salutare. Ciao, tu ci sentiamo, saluto la prossima. Avanti. Natalia. Mia Pupuzzi, mi. Ciao Tony. Vabbè, hai visto che bel vento, eh? L'ho visto. E olio. Mi sa sono arrivato anche da nuovo, sono arrivato perché non ho il coglione in terra di questa storia del coso che sale e scende di segnale, di ricezione, in trasmissione invece non si muove per niente, col vano, col vatmetro. Quindi adesso appena fa bel tempo, la prossima settimana ce l'ho già pronta l'antenna, 70 euro, la mia 27 metto quella, va a fanculo, la mando mangiare, la scendo giù, la pulisco bene e poi me la metto da una parte, come ho fatto con l'altra. L'altra cosa, cioè, mi sta facendo la stessa cosa dell'altra volta. Quando avevo la manto fatto, guarda, dopo 6 anni, e che si alleggerisce, in pratica l'attacco del PL si ossida, perché entra l'acqua all'interno, non riesce a sfogare, e quindi se tu schiacci il portato e conduce, se no niente da fare. Infatti non si muove per niente, cioè il fasso c'è uno e uno tondo tondo, non può essere il capo, quindi cioè, mi sembra strano. Quindi praticamente c'è l'attacco dell'antenna praticamente del PL, colui che si ossida. Esatto, sì, la mano purtroppo è così, c'è quell'attacco lì di Fattorso, l'attacco del PL, bravo, sopra. Mantova 5, Mantova 1, Mantova turbo, tutti e tre lo stesso difetto, ciao. Basta mettere il grasso, un me, quelle cartucce di grasso che vendono per i mesi grossi, quelli movimento terra, quello è il grasso buono, metti quello lì e sta tranquillo che non si ossidava più. Reico. Ehi, cosa cazzo? Molto l'antenna per la comprata, cazzo, per metterci il gas, ma tu sei, a parte non si muove nemmeno, cazzo. Io lo sai che è giusto. Dal PL il cavo, che poi non è un cavo, è un pezzo di cavetto da. Come ti posso dire? Non è da uno, è da mezzo. Hai capito? Quindi è un casino. Avanti per cazzo. Scusate qua, la propagazione lo zappa. Stanno chiamando da fuori, dall'Italia. Ma questo non è Carlo. Sì, buonasera, io sono Carlo. Già ero un giorno con Stivo. Ciao Carlo, mi senti tutto portato a te. Buonasera, sì, ero un bel po' che non entravo, dai. Mi fa piacere che ci siate ancora su questo canale. C'è qualcuno che vuole entrare dal nord Italia forse? Se ne avete voglia lo facciamo entrare. Avanti, sciacquonomi. Sì, buonasera, operatore Manuel. Ho capito ben poco perché arrivi a tratti, comunque ci ho ben sentito. Tonino Cavazzacchi da Sassari, compagnia di Carlo sempre da Sassari e di Antonello Alessio da Sassari. Tutto qua, avanti. Avanti l'amico di fuori. 5 Radio 5, ascolto perfettamente. Ma da dove stai trasmettendo, amico? Da Vicenza. Da me. Comunque arrivi, insomma, con molto QSB. Avanti, Popò. Io capito anch'io a Vicenza. Già va bene, il ponte che arrivi. È strano che ci sia propagazione oggi. E gli usi. Vabbè, ormai è diventato tutto strano, la verità. Ogni tanto c'è una crisi, ogni tanto c'è un meteorite, ogni tanto c'è quello, ogni tanto c'è quell'altro, quindi ci dobbiamo tenere su quello che abbiamo. Speriamo che la propagazione su tutto il livello italiano, a poter avere quella inglese. Allora siamo a posto. Comunque, io ho messo i tiranti, grazie a Dio, ne ho aggiunto altri due, e tiro che il palo è secco e tettaro, perché lo vedevo strano oggi, col vento che ci ha 78 km orari. Il vento è sempre forte, comunque adesso è a posto, io sono tranquillo, e l'antenna è ferma, andava bene, si muove solo lo sillabo, e giustamente non può fare nulla che dagli aerei soccorsi della Venom, quindi. Va bene, Carlo, riparo. prenditela. Ehi Antonino, sempre forte il segnale tuo, è qua. Santiago 9 più 20 mi segna così sul LED della mia radio, però radio Super 5. Va bene, va benissimo, il tuo segnale già è forte e chiaro, l'antenna tua già è bella, è libera, quindi arrivi un po' dappertutto, Tony, sempre forte. Come stai? Ma piccola disavventura il 2 settembre e mi sono ripreso piano piano da poco, quindi dopo ti rispiego il perché. Sì, l'antenna ho sollevato oltre 2 metri, ho 6 metri di antenna di palo e più 6 metri circa l'antenna che è lì. E sto arrivando leggermente meglio, sento anche meglio, diciamo. Sì, il 2 settembre sono a Trattanati e come ho posizionato la macchina, su quei mattoni autobloccati, molto sollevati perché sotto c'è la gramigna, sono cascato come un sacco di patate, mi sono fatto male, questo posso dire, sia il ginocchio, ho visto parecchio sangue e non riuscivo a alzarmi, in più ho sbattuto la faccia a terra, mi si è aperto un po', tagliato il naso, è uscito sangue, ho avuto l'ambulanza, prendimi, e insomma in paga la sicurezza, adesso aspettiamo un po', non è come un RCA che entro una settimana ti pagano chiudi il coso, no, mi ha detto passa un po' di tempo, cioè, spero che entro la tarda mi arriverà in Cedinato. Sono stato un mese e mezzo messo male, tutto qua, la verità. Tra fisioterapia eccetera eccetera, insomma adesso sono meglio, dai, avanti capo. Alzo, mi dispiace, non sapevo niente, va bene che c'è stato un periodo non stavo entrando in radio, non avevo tempo e turni stressanti, 8 ore d'estate e quindi dai, è importante che ti sia ripreso e, insomma quelle sono brutte botte, però importante uscirne bene, Tony. Vediamo se c'è ancora Antonello, così rilanciamo a lui. Sono con l'acqua tranquilla, non ti preoccupare, è tutto a posto. Allora, non si muove, faccio 1-1 ciò. Quindi Tony, hai sollevato tutto, l'antenna, hai messo il cavo nuovo, quello che ti ho dato io, sì. No, Antare, purtroppo io il cavo nuovo non l'ho messo, non sono in condizione di mettere il cavo nuovo su questo palo che ci ho aggiunto, l'ho messo delle viti passanti, insomma ho fatto un casotto. Quando avrò un palo, come dico io, come Dio comanda, a tutto unico, 6 metri, 8 metri, quello che sia, allora è diverso. Tirante come si deve, allora è diverso, allora metterò quel cavo là. Per il momento è conservato quel cavo. Cosa voglio dirti? Allora se quell'antenna la scendi, Antonè, pensa a me, ci sono io, te la prendo io. Vabbè, intanto io, quando scendo con l'antenna me la sistemo, il discorso è quello. Sto prendendo la via 27L e piccata per notare senza antenna, hai capito? 70 euro me la lascia Tonino, quindi a un certo punto va bene, è il prezzo giusto suo, se tu vai ordinare costa 60, più 10 euro di spedizione, è come se mi fosse stata regalata la mia 27L, la verità. Devo solamente pulirmela, me la pulisco col coso come ho fatto l'altra volta, smontata tutta quanta e mi è arrivata di 15 anni, l'antenna che c'avevo prima io l'ha avuta Stefano, mi è arrivata 5-6 anni tranquillo, vabbè gli è caduto, si è spezzato il palo e gli è caduto in terra, si è fatta a pezzi, se no è stata ancora attenta, la bella pesta lì. Stazionario 1-1 e ho messo il cavo da elettrico da 1, perché c'entrava solamente da 1, 1-1.5, una cosa del genere. Mi ho infilato dentro, ho fatto la saldatura, ho messo lì eccetera eccetera, poi tutto il giro che bisogna fare, se passarlo su dove c'è la bobina, devi fargli la saldatura eccetera eccetera. Poi il bello è quello, l'unica cosa è ci vuole una specie di pizza a becchi per poter metterci il dado e farlo passare all'interno e farlo uscire all'esterno per poter cazzo bloccare. Il casino è quello di quella mancanza di mandorlo, è che parte tutto dalla vetrovesina, hai capito? Scuba la bobina eccetera eccetera. Mamma mia, ragazzi, il casino mi tocca fare. E per non stare senza che l'ho fatto io, ho detto guarda, devo andare una, no, ce l'ho già io, mi ha detto. Ho detto quanto me la dai a me? Dice 70 euro te la porto via, ho detto guarda, aspetta, una settimana me la porto via, gli ho detto. Così mi scendo giù quella, me la faccio con calma in garage, gli ho detto, me la pulisco bene, come ho fatto con l'altra, che bisogna aprirla tutta, lo sai che la matto a tubo non è come la matto a 5, no, bisogna aprire, c'è la plastica, poi c'è le, ci sono 7 viti, ci sono da togliere, e dopodiché devi togliere i radiali, eccetera eccetera, poi c'è un foro che patela lì, il patela dove c'è bagagliato il PL e poi sale sopra, dove c'è la bombina. Io l'ho già fatto quel lavoro, l'ho già fatto tanti anni fa, quando c'era Mario Massa, c'era, che è Marina, quindi so come funziona, e se no la velampata ce l'avrei. Riprendi Carlo, che mando un messaggio vocale a una persona. Ehi Antonino, ma quella che stai prendendo alla GBC cos'è? Una, come si chiamano quelle? Una tipo boomerang, Antonè? No, è la 5 ottavi, la 5 ottavi, la Siria, come la vuoi chiamare? La chiamano lo chiamavano BA27L e poi si chiama Mercury. Esattamente, adesso, va bene, adesso la chiamano Mercury, ma comunque è la 5 ottavi della Mercury, capito? A me interessa più che altro per provvisoria, per non stare senza antenna, attacco una, attacco l'altra. Utilizzo quella, dopodiché vediamo un po' cosa farne, se darla, se conservarla, non lo so, adesso vedremo. Non ha giocato di comprarmi uno, cioè a un certo punto comprarmi una Grand Prix, 50 euro a Fusaro, piazzarmela al posto della moto, ma sarebbe cazzo una gran coglionata, la quella che costa 20 euro in più, e c'è una 5 ottavi lunga, si mette 50, il discorso è quello. La conosco, quindi come antenna va bene, non li posso attaccare più i 500 watt, ma che se ne frega, ma a me non funziona. Il problema è che qua non mi dà problemi, capito, in trasmissione, mi dà solo ricezione. E devo capire cosa cazzo c'è, cioè devo salire sopra al tetto, tu immagini, mettimi la scaletta, salire sopra al tetto, ci vuole una persona sotto, in modo che io tocco il cavo, o il PL, quello che è, è vero se il problema è il cavo, o se il problema è il PL femmina, il discorso è quello. Tutto dico. Ho capito. E una volta che la tiri giù, poi quella te la rimetti a posto con calma, capito? E comunque procurati, vero, se te lo trovo io, uno spinotto o due di quelli in bacchelite, perché non mi ricordo se li avevo dati o se ce ne ho ancora due o tre giù. Poi ti mando su WhatsApp, se li ho trovati già ti mando la foto, perché quelli in plastica sono antipatici, perché uno hanno difetto per avvezzare e due se si fonde appena la plastica dentro non sai cosa succede, quindi può essere che sia successo qualcosa del genere, capito? Quindi c'hai o un po' di contatto oppure un falso contatto, capito? Il problema è quello, ma se la devi appunto togliere la tua ti riprendi tutto in mano e Tonino GBC forse aveva qualcosa di meglio rispetto al negozio di via 4 novembre, comunque. Quelli sono i PL Amphenol. Cioè, praticamente Antonio, che antenna ti sei ordinato? 5 ottavi, mezz'onda, cos'è? Una 5 ottavi, e quella che ho preso, c'è la Torino, c'è già pronta, hai capito? Devo solo ritirarmela e basta. E che antenna è? Come si chiama? Un nome ce l'avrà? ANGM, la 5 ottavi, 70 euro. Ah, ce l'avevo anch'io, ce l'avevo, sì, va a rompere quell'antenna Antonio, che poi l'ho data a Gianni, poi Gianni, non so cosa è successo, l'ho data a Franco, ha fatto un giro. Vabbè, ma io sto piano, per lo stato di caccia, cioè se sta cura, devo sistemare, no, no, no, a un certo punto. Devo smontare la basetta, eccetera, eccetera. Piazzo quella e va a culo. Dopodiché, una volta che l'altra è pronta, non faccio altro che la B27, me la metto, o la metto da parte, se me la vendo, se vediamo un po'. 70 euro me la sta dando, ne ha solamente una. Ho detto, guarda, mettimela da parte che me la ritiro io, gli ho detto. Mi serve, gli ho detto, come il coso, gli ho detto. Adesso purtroppo ho detto, c'è il vento, c'è l'acqua, c'è il coso, non posso dire se fa il vento, gli ho detto. A smontare detto, la mantova e piazzarmi l'altra, ma è tutto, non ci sa come ho morto. Non mi va a ammazzare prima di farmi l'esame, gli ho detto, con la pensione. E basta. Dopodiché, altro non ti posso dire, infatti io ho preso il cappetto l'altro giorno, mi sembra che mi è venuto 7-8 euro, 1,58 da un metro, con 2 PL, già pronto. Sì, comunque Carle, Dante non so quei migliori di PL. Sì, sì, Tony. Comunque, Antone, se mi ascolti, se ti interessa un SD 27, capito, è una mezz'onda, è in ottime condizioni, quella che usavo io, è un dipolo, lo puoi mettere sia in polarizzazione verticale che orizzontale, però a questo punto lo metti in verticale ed è perfetto. Se vuoi te la do, la usi, così non spendi soldi, poi quando ti sistemi la tua che la togli me la restituisci. Se non vuoi spendere soldi, tanto non la sto usando, io ce l'ho in garage. No, no, no, no, lascia, laga perché la puti, fregate. Forse c'è un amico di Torino che ha senza antenna, al limite la puoi anche prendere, il dipolo verticale non è quello il problema, perché me l'ha chiesto a me l'altro giorno, se c'era un'antenna, c'era una ringo, ma la ringo non serve a un tubo. Devo usare la ringo che c'ha, no, c'ha quella specie di isolatore, una volta che se ne scende il cazzo va in cotta e quindi non conduce più, non funziona l'antenna. Ma l'unica cosa è, avevo visto la B27L, va fa' culo, se la piglia in culo, 70 euro non mi costa niente, guarda, ho fatto male io, quella volta che ce l'avevo poi a vendermela, me la tengo di riserva come antenna, me la tengo in garage, conviene sempre avere un'antenna qua, a volte, conviene veramente. La cazzata io, una bella data, anzi una bella regalata, non data, regalata, regalata a cosa? A Giuseppe Leoncino l'ho regalata, la mia 27, Giuseppe mi ha detto pigliati questa, ha detto, te la piazzo io, a casa tua, e l'avevo usata lui. Ha funzionato bene fino a è durata, mi sembra 5-6 anni, dopodiché un giorno ho fatto un colpo di vento forte, dice, lo sai che il punto debole della B27L in pratica è dove c'è l'inizio della bobina, c'è quella saldatura in pratica e quella saldatura a volte salta, quindi a un certo punto non basta fare solamente un coso da quella saldatura lì, fagli un foro, fagli un cerchietto con un coso e così c'è la doppia saldatura, almeno non si muove, nel caso dove succede qualcosa non si muove, poi non fai altro che metterci in altro vulcano, gli metti come si chiama il coperchio suo sopra, l'altro vulcanizzante, l'antenna ti dura 5, 10, 15 anni ti dura, la scende là a pizzi, però dura. Ma ne avete QRM alto voi? Io ho quasi 3 con questa palatina. Qua è molto più alto, perché prima mi chiedevano informazioni se c'era QRM alto, però va e viene, capito? CQ, avanti Nord Italia, buonasera, Sassari chi ti ascolta? Nord Italia. Avanti Nord Italia, Sassari e qua in ruota. Città di Aosta. Aspetta col tempo, dove va? Aggio compreso. Romeo, sono al centro di Aosta, in questo momento in barra. Ho capito che sei in barra mobile e niente. Io sono l'operatore Carlo qua a Città di Sassari in compagnia di Antonello e Tonino. Ti sentiamo un po' va e vieni, però ti sentiamo abbastanza forte quando passa il segnale. Per me eri Santiago 8, Radio 4. Non ho capito da dove però. Se mi ascolti, Radio Alfa, Oscar, Sierra, Alfa, Aosta. Aosta. Città di Aosta, quella località lì? Confermo questo. Ho capito, adesso sei passato, sì. E c'è un po' di propagazione verso il nord Italia, infatti anche prima si sentiva il Piemonte, quelle zone alte, insomma. Benemeda, un saluto qua dalla città di Sassari, nord Sardegna. Ok, attenzione, l'amico di Aosta, mi copi, sono Tonino Kawasaki, sempre da Sassari. Ascolto, io ti Ok, comunque arrivo con un QSB di Santiago 5-7, la radio va e viene, capito? Comunque, riusciamo a malapena tirati fuori. Propagazione un po' fasulla, diciamo, c'è la ultima, ti sentiamo meglio. Ok, Antonello, hai attaccato questo altro apparato? Adesso sono 140, 1, 2, 3, 4, 5, 6, penso che mi ascolti meglio. Sei cupo di radio, eh? Aspetta, radio, l'MP5 c'è me. Aspetta un secondo, lo specifico, power economy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stai saturando, Antonè. Adesso va bene, sì. Abbassa. Abbasso, più basso di così. Sono a 10-15 watt. Adesso va bene. Allora, adesso come va? È un po' così, è basso. Dovrebbe essere troppo basso così. Adesso è il cupo, gà. Visto, quindi. Allora, così dovrebbe andare bene. Mamma mia, se che vuole così, per carità, meglio niente.